A fare quella l'omertà, forse mi sapremo quello che volia, affogare il sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutta uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, leggi nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Senza me problemi, guardare le cose con sincerità, l'unico famiglia sa volontà, mica devi fare per l'umanità. Don't.